Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Sa che tel dis del nostro manera, lui non riesce fino a primavera, ma ogni mattina quando leva il sul si infila la vestaglia, c'è il picchia dentro il pule pule pule pu fel tacchino, qua qua qua qua lo che ta cif ciaf cif ciaf l'imbianchino, e di noi che cosa sarà, zan zan. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori. Alzo la testa e vedo Carmelo Lauricella in regia. Quindi possiamo pure mandare la sigla di chiusura, perché per oggi le notizie negative le abbiamo date. E possiamo chiudere, manda pure la sigla. Ci sentiamo domani alle 9 in punto. Eccoci, cari ascoltatori, 9 minuti, io dico così perché mi amano così in regia i tecnici che si succedono. L'ha mandata veramente. A domani, cari ascoltatori, Manera sarà contento. Vabbè, puoi sfumare, era uno scherzo. Siamo qui, riuniti al Braccobaldo Show con Carmelo Lauricella in regia, con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro Leonardo Manera, che oggi c'è, arriverà? Beh, oggi c'è una giornata di sole, pur essendo ottobre, pur facendo freschino già a Milano, di sole bello, intenso, pieno, e quindi pofferbacco. Sarà tra di noi il buon Leonardo Manera. Lo scopriremo solo vivendo alle 9.30. Voi potete chiamarci 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Oggi torneremo a parlare di tanti temi, torneremo sulla questione dei monopattini che sono in tante città italiane, parleremo di altre tematiche più avanti, ma è inevitabile, tanto tutta l'Italia di che cosa parla all'inizio? Parla di questo. Guarda, Carmelo ce l'ha anche in regia, della mascherina, mascherine sì, mascherine no, mascherine su, mascherine giù. Vai. I will not be easy and it will not be easy. No, no, non sarà facile. Ho detto oggi DJ Lucchetti mi apre con Van Halen, ma con calma, con calma, con calma, arriverà. Sta picchiettando sulla tastiera, secondo me mi licenzia in diretta, attenzione Non stai picchiettando, pensavo stessi picchiettando sulla tastiera un messaggio di fuoco. Vedevo delle fiammelline anche uscire dai tasti di quella tastiera, quindi ho detto mi picchietta un messaggio di fuoco direttamente che vi andrò a leggere tra poco quando mi comparirà sulla schermata. Allora, ecco, vedi, più tardi ho previsto Van Halen, questo è il concetto del suo messaggio, come dire, e non contestare, questo non c'è scritto ma era sottinteso. Io ricordo che da 36 giorni 18 pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti in Libia per violazione delle acque internazionali, non se ne sa molto se non che verranno processati in Libia. Questo alla trasmissione di Nicola Porro ha detto un generale libico due giorni fa. 36 giorni, 18 pescatori di Mazara del Vallo sono là a Bengasi. Allora, dopodiché, buttiamoci a capofitto sulla questione mascherine, eccetera. Io devo dire, ascolto voi, chiamateci all'800 24 0024. Devo dire che l'ultima cosa al mondo che potrò sopportare questa disfida delle mascherine adesso. Quelli che dicono che va portata, ma va portata con sé, ma non sempre indossata. Se sei da solo non serve, se sei con un congiunto non serve, se sei al cane non la devi mettere al cane, se la devi tenere sul naso, sotto il naso, a mezzo naso, al mento, all'orecchio, e ti fa le orecchie da Andreotti, quelle che siamo in questo un popolo così di creativi. Dopodiché però ho letto alcuni articoli che mi hanno colpito. Ci sono le polemiche su Walter Ricciardi, consulente, perché disse in un articolo apparso il 2 aprile in una rivista scientifica che il lockdown è stata una misura di cieca disperazione. Allora oggi il Corriere della Sera va a chiedere a Walter Ricciardi questa cosa, come dire cieca disperazione. Lui si giustifica dicendo che intendevo dire cieca nel senso di estrema. Non quando non si hanno altre soluzioni, l'estrema soluzione è il lockdown, quindi per cieca intendevo questo. Ci sono anche altri articoli, mi ha colpito sempre un altro articolo del Corriere della Sera, per esempio, ma io lo fornisco perché sia spunto, non da dire ah ecco tu neghi, minimizzi eccetera, a parte che io non faccio niente, al limite riporto come in questo caso quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sappiamo anche essa essere un organismo criticato a sua volta, però l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice questo, abbiamo fatto le proiezioni, i veri colpiti, quindi i positivi nel mondo, non sarebbero quelli accertati, cioè sui 35 milioni eccetera, ma sarebbero un cittadino del mondo su 10, sarebbero finora 770 milioni secondo le stime, secondo il principio per cui, ieri abbiamo parlato con il professor Giuseppe Remuzzi, più cerchi positivi più ne trovi ovviamente, perché molti sono asintomatici, questo ormai l'hanno capito anche i muri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice i veri colpiti sarebbero 770 milioni, un abitante della Terra su 10. Se si applica questa statistica, la letalità, la mortalità del Covid sarebbe ai livelli delle influenze stagionali di tutti gli anni. Dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non miei, nemmeno di Carmelo Lauricella in regia. Se però volete dargli del negazionista così, dateglielo e lui se lo porta a casa sul groppone, tanto non può dire nulla. Ma io saluto Fiorenza Sarzanini per l'appunto del Corriere della Sera. Buongiorno Fiorenza, ciao, grazie di essere. Buongiorno a voi, ciao. Saluto anche il professor Alfonso Celotto che torna con noi, costituzionalista. Buongiorno professore. Buongiorno. Io peraltro sono con mascherina perché sono a Roma all'aperto, quindi devo tenere la mascherina. Però è da domani in teoria. Però vabbè, lei... A Roma già. Stia attento. Io parlo da Milano. Scusate. Parlo da Milano. No, se volete, se no, raggiungere il professor Celotto per verificare, care forze dell'ordine, eventualmente fare una multa in diretta, sarebbe un gran momento di radio. Da 500 a 3.000 euro. No, 400.000 euro. Vabbè. Lei si giustifichi così, Celotto, nel caso stavo parlando con Radio 24, cioè. E utilizzo l'avvocato Sarzanini per difendermi. No, a proposito di questo, poi c'è anche la questione dello spettacolo. Non voglio scendere nel populismo che ha dato il Parlamento ieri con la mancanza del numero legale, però Fiorenza Sarzanini, dici intanto, perché tu lo spieghi bene oggi sul Corriere della Sera, sta mascherina con noi ma indossata, con noi in tasca, con noi a disposizione, che succederà da domani o in alcune città come Roma da subito? Sì, purtroppo credo che anche questa volta avremo il problema congiunti, non congiunti, chi è congiunto. Allora, la mascherina, da quello che si è capito, adesso vedremo il testo come esce da Palazzo Chigi, la mascherina va portata sempre con sé. Indossata quando si è in un, appunto, per strada, nei negozi, al chiuso è come adesso, quindi quando certo. Entri nel negozio ti metti la mascherina, quando esci finora la potevi togliere, se invece sei in una strada dove appunto ci sono persone, se sei in giro a fare una passeggiata per il centro di una città, eccetera, la devi tenere. Se vai in macchina da solo con i congiunti, se vai in moto con un congiunto, no, chiaramente se vai in bicicletta o se sei in un posto isolato dove stai facendo una passeggiata in un parco, comunque non la devi tenere. Non la devi tenere, certo. No, no, ma devo dire che queste sono le regole, poi vedremo. C'è anche tutta una disfida e su questo il professor Celotto ci può aiutare. Oggi ho visto un'intervista a Luca Zaia della Regione Veneto a dire basta, noi capiamo meglio il territorio. Io lo sapevo che si andava a finire così. Ieri Celotto, quando l'abbiamo sentito, penso si possa dire, ce l'ha sintetizzato, il classico Roma-Juventus di calcio, cioè Stato centrale, regioni. Allora, siamo uno Stato dove le regioni detengono il potere sulla sanità e sulla salute, caro professor Celotto. Chi decide in questa disfida tra poteri centrale o periferici? Guardi, è il problema proprio aperto quello di domenica sera della partita Napoli, Juventus-Napoli, no? Sì. Ma ha ragione la Juventus che ha applicato la normativa statale, peraltro di settore, quella sportiva, o ha ragione il Napoli ha applicato la normativa, la disciplina della sua ASL territoriale di appartenenza. Noi siamo uno Stato quasi federale, perché poi con la riforma del 2001 siamo rimasti a metà, quindi è vero che la materia della salute, tutela della salute, è competenza regionale concorrente peraltro, cioè i principi li fissa lo Stato e il dettaglio le regioni, cioè le regole generali sono statali e vengono poi adattate di parte in parte dalle regioni. Però nel frattempo è scoppiata la solita confusione all'italiana. In che senso? Noi ad oggi abbiamo 7 regioni che obbligano la mascherina all'aperto con 7 discipline differenti. Per esempio a Roma io devo mettere la mascherina sempre, anche se fossi da solo in piena notte al centro di Villa Borghese. Invece in Sicilia, se sono da solo, non la devo mettere la mascherina, perché devo essere solo se sono in situazione di assembramento, ovviamente. E poi ci sono anche i comuni che hanno competenze sanitarie e possono derogare. Quindi di cosa ha bisogno il cittadino? Di certezza in linea generale, perché cioè servono regole unitarie, oggi dovrebbero essere fissate dal Consiglio dei Ministri per darci una certezza. Poi è ovvio, se c'è una regione con più contagi può incrementare la misura, la può decrementare, però le norme devono essere chiare, perché quando le norme non sono chiare, ovviamente il cittadino va in incertezza. Però professor Celotto, ce lo insegna lei che le norme, che scrive libri a riguardo, che le norme sono sempre chiarissime, sono talmente chiare. Guardi, è il responso della, allora, le norme sono come il responso della sbilla, no? Ibis redibis non moriebis in bello. Noi ricordiamo tutti, a seconda di dove metti la virgola, morirai o non morirai in guerra, certo, tornerai o non tornerai. Quindi il problema è sempre quello, che il testo della norma, per quanto chiaro, è sempre soggetto all'interpretazione, all'applicazione, e quindi c'è il margine di discrezionalità. È un problema antico come il mondo, ecco. Certo, ecco, il problema è questo. Fiorenza, c'è un confronto politico che si sente a Roma? Oggi alle 18, se non sbaglio, c'è una riunione, presenza del Consiglio Regioni, conferenza Stato-Regioni, insomma, quindi c'è, perché in questo caso è giusto quello che diceva il professor Celotto, è un problema, diciamo, tecnico, ma è anche un problema politico, perché fino al 19 maggio le regioni avevano solo potere di ordinanza più restrittiva. Dopo il 19 maggio invece sono tornati ai pieni poteri, e come ricorderete quest'estate alcune regioni per esempio hanno aperto le discoteche nonostante fossero vietate a livello nazionale, e lì adesso c'è il timore appunto che ci possano essere altri allentamenti rispetto a quelli che sono, che è la linea nazionale. Anche questo, diciamo, è c'è dietro, giusto o sbagliato che sia, l'intenzione del governo di fare un provvedimento che stringa di nuovo, cioè che dia alle regioni solo il potere di fare cose più restrittive. Per esempio, tutti i ristoranti in Italia sono aperti fino all'orario. La Campania ha messo l'ordinanza per cui alle 23 i ristoranti chiudono, ma non può, se il governo invece decide di chiuderli alle 23, tenerli aperti fino all'una di notte. Sì, sì, insomma, è la giungla. Poi tra l'altro ci sono vari livelli. Questo professor Celotto, ancora da costituzionalista, glielo chiedo, perché ad esempio in Campania, l'abbiamo avuto anche ospite 2 giorni fa, De Magistris, c'è uno scontro politico molto aperto tra i sindaci e i governatori. cioè non si capisce, troppi livelli istituzionali, troppi che decidono. Adesso qualcuno dice che siamo nella Repubblica delle ASL. Il problema è esattamente questo, perché poi, mentre la situazione, diciamo, della pandemia, non siamo negazionisti, quindi crediamo che sia vera, crediamo che sia gravissima, e quindi dobbiamo giustamente tutelare queste misure. E le misure devono essere prese a fini generali, non a fini politici. Invece abbiamo visto, ad esempio, alcuni governatori nelle scorse settimane hanno fatto ordinanze che io chiamerei boomerang, cioè erano certi la Sicilia sui migranti, la Sardegna sulla registrazione col tampone, erano chiaramente ordinanze incostituzionali, però le hanno fatte comunque a fini politici, per dire: io l'ordinanza l'ho fatta e poi quel cattivo dello Stato me la dichiara incostituzionale, me la dichiara illegittima. Però quando poi scende lo scontro politico, ovviamente complica ancora più le cose, i cittadini restano più confusi, non hai chiarezza di indirizzo. Servirebbe quello, questo momento di unità nazionale, tante volte abbiamo richiamato il 1945-46, no, quando De Gasperi, Togliatti e Nenni dissero: vabbè, per un anno non litighiamo più, prendiamo delle misure tutti insieme, ripartiamo, perché il paese deve ripartire. È quello, perché sì, questo micro conflitto politico ovviamente ci complica. Allora, io vi voglio far sentire Roberto Mancini, che voi dite chi è, il CT della Nazionale, insomma, voi lo conoscete un po' tutti, ex calciatore, ora appunto dirige la Nazionale italiana di calcio, perché c'è anche stata questa dichiarazione due giorni fa del ministro della Salute Speranza, quando è andato alla Luce Annunziata, ha detto: parliamo un po' meno di calcio e più di scuola. E allora Mancini risponde proprio al ministro, anche con parole molto taglienti. Penso che bisogna pensare, quando si parla, insomma, ogni tanto, e pensare che comunque per tutti gli italiani, insomma, lo sport è un diritto come la scuola. Non è una cosa che ci viene data così, cioè, abbiamo diritto a tutto questo. La politica è importante, importante tanto quanto la scuola, tanto quanto il lavoro, anche perché lo sport in Italia è praticato da milioni e milioni di italiani a tutti i livelli. Vabbè, c'è anche questa polemica, Fiorenza Sarzanini, tra il calcio, il mondo del calcio, che ha delle regole sue, lo ricordiamo, forse anche esageratamente fuori dalla realtà in questo protocollo firmato, e la politica. No, te lo chiedo perché è un ascoltatore, poi alla fine gli italiani si chiedono questo: ma il calcetto con gli amici col nuovo decreto sarà consentito? Sì, penso. Beh, di sì, gli sport da contare sì, sono sempre stati una delle, per ora sì, e quindi sì, credo proprio di sì, non cambierà niente, le misure che ci sono vengono prorogate. Sul calcio ha ragione Mancini quando dice che ma qui però c'è un equivoco, perché è sempre lo stesso problema. Secondo me poi c'è un equivoco di fondo, e allora, come diceva il professor Celotto, si alimentano le polemiche, le confusioni. Lì la domanda riguardava la riapertura degli stadi, non il fatto che non potesse giocare, quindi Mancini giustamente se l'è presa, perché quello è il suo lavoro ed è giusto che sia così. È come se a me dicessero: non devono più uscire i giornali. Certo che no, ma sai, quella frase, come io ho detto, quella frase meno calcio e più scuola, sì, era messa così, sono quei titoli un po' infelici, perché sembra che i problemi della scuola derivino dal fatto che ci si dedichi troppo al calcio, invece non sono ambiti entrambi importanti. È vero, ricordiamoci che il calcio è la terza industria del paese, non dimentichiamo mai, quindi voglio dire, non sono solo i giocatori o gli allenatori, il calcio ha tutto un mondo che si muove, e appunto mi sembra che sia un mondo produttivo. Allora è inutile stare a fare la polemica, è evidente che in una situazione del genere, dove appunto i ragazzi stanno a un metro di distanza a scuola, alle partite di calcio più di tanto di spettatori non ce ne puoi mettere, però che il calcio si debba fermare, certo, appunto, poi lo spettacolo di Juventus Napoli è talmente pietoso che uno dice: Esatto. Io vorrei concludere chiedendo al professor Celotto che cosa direbbe il dottor Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale, che è un po' l'alter ego del professor Celotto, che firma diversi libri sia come Celotto ma sia come anche Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale. Che direbbe di tutta questa vicenda? Ma il dottor Ciro Amendola direbbe che noi stiamo combattendo il Covid con i moduli, e con la burocrazia, perché una delle cose che più stupefacenti che noi facciamo continuamente è fare autocertificazioni che non abbiamo il Covid, mandiamo modulistiche, apriamo app, e quindi anche quello, cioè lo stato burocratico ha reagito con le carte, e spesso queste carte non hanno buon senso, perché poi quello è il problema vero. Cioè, riapriamo gli stadi, giustamente, panem et circenses, no, diamo questo sfogo, facciamo giocare, però se riapri agli spettatori non puoi mettere 1000 persone nello stadio di Benevento e 1000 persone a San Siro, non ha senso, o lo fai proporzionale. Quindi le regole devono ispirarsi anche al buon senso, quello che manca tante volte nel diritto, il buon senso, soprattutto perché la confusione politica, la conflittualità politica non ti aiuta. Sì. Allora, io vi ringrazio Alfonso Celotto e Fiorenza Sarzanini, che se volete approfondire leggete anche oggi sul Corriere della Sera. Io faccio una chiosa sulla questione del buonsenso, ha fatto riferimento il professor Celotto. Ieri sera al Teatro Manzoni di Milano c'è stata la serata che mi tocca in prima persona, dedicata insomma al premio Wondi di letteratura resiliente che abbiamo assegnato ieri ad Andrea Pomella, ovviamente complimenti a lui, così come a Leo Ortolani che ha vinto il premio della giuria. Lo dico non per pubblicità, ma perché ho incontrato ovviamente il direttore del Teatro Manzoni, Alessandro Arnone, e ho visto negli occhi suoi e negli occhi di tutti coloro che lavorano nel mondo del teatro l'apprensione e anche la sensazione di dire: ma porca miseria, ma proprio il mondo dei teatri è un mondo che viene considerato all'ultimo posto, e se c'è ancora un po' di posto ancora più in fondo, perché il buonsenso adesso forse si sta pensando di riportare a 200 posti di capienza massima in teatri, per esempio il Teatro Manzoni ha 820 posti, ma immaginate, non so, gli Arcimboldi a Milano, ma comunque teatri che hanno 1000 posti di capienza, 1500 posti, 2000 posti, mettere burocraticamente questa soglia massima di 200, praticamente le persone stanno a 40 metri l'una dall'altra. Ecco, che cos'è? È buonsenso? No, non è buonsenso. È considerare il mondo dello spettacolo, il mondo dei teatri, meno di zero, e volere buttare alla fame decine, se non centinaia, di migliaia di lavoratori. Tutto qua. Andiamo alla pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, buongiorno intanto. Non ci hai mai spiegato perché quei 18 pescatori sono andati a pescare nelle acque libiche. Vi chiedo scusa amici Alessandro, ma il protocollo che ha firmato il mondo del calcio non l'ha firmato insieme al comitato tecnico scientifico del governo italiano? Punto di domanda. Ma non è che qua il problema è sempre solo la Juventus? Manera, notate la differenza, cioè Ivan Allen con ieri, la scomparsa di invece Leonardo Manera. Cosa vuoi dirmi? Che anch'io dovrei che non esserci più? No, più. Che mi hai augurato la morte, no, subitanea, no. Una morte subitanea mi hai augurato. Dice Ivan Allen sono morti e Manera ma ancora no, qui, come so, dire ma... è il mondo alla rovescia, ma no. È Manera che dovrebbe morire e no. Ivan Allen essere ancora vivi. Questa è l'accoglienza, no. Manco da due giorni in studio, l'accoglienza è questa, no. Dice Ivan Allen morti e Manera vivi, vivo, no. Il mondo alla rovescia, no. Ringrazio per questa accoglienza che mi viene fatta. Grande gioia per Ivan Allen che vogliamo far risentire ancora un pochino. Grande gioia perché sono morti, no, non ne indovini una stamattina, quindi sei contento perché sono morti Ivan Allen. Niente, io direi di chiudere qui per oggi la puntata. È già la seconda volta che chiudiamo, ho già chiuso alle 9.07. perché hai chiuso che io ero in metropolitana? Perché ho chiuso? Non lo so. Perché c'è Carmelo Lauricella in regia. Allora ha detto possiamo pure chiudere. Niente, oggi è così. Ma insomma, fammi capire se è giusto quello che, come ho interpretato il nuovo DPCM. Praticamente le mascherine, quando ci sarà? Sì, dopodomani. Sì. Le mascherine all'aperto vanno portate con sé, ma messe solo se sei nelle vicinanze di altre persone, sì, giusto? Certo. Sì, adesso si vedrà bene il testo, come ci ha spiegato Fiorenza Sanzanini. Se sei da solo e lontano dagli altri, devi averla con te, ma non necessariamente sulla bocca, o se sei con un congiunto. Se invece incrocio, incontri, sarà un po' all'italiana. Insomma. Io la tengo al polso normalmente. Al polso. Sì, se c'è qualcuno. Dicono che lì ci sono i microbi, ma tanto c'è dicono anche in tasca ci sono i microbi. Sì, di più che al polso. E allora dove la devo tenere sta mascherina? Ma mettitela sul naso e basta. Sì, ma uno, mettiamo che entra al bar a bere un caffè, lì si può entrare al momento. Sì. Io l'abbasso. E dove l'abbasso. Ma il collo ha tutti dei batteri. Niente. Ma poi quelli di cotone, di tessuto, proteggono veramente o no? Perché qui ci sono anche delle teorie contrapposte. Non tanto quanto le chirurgiche. Ci passano dentro i batteri come nelle maglie. No, sì, vabbè. È tutto un po' empirico. All'italiana. Al buon senso, dai, di noi italiani che alla fine. Va bene. No, prima ho fatto anche l'appello appunto ai teatri, visto che ieri ho fatto la serata al Teatro Manzoni e parlavo col direttore Arnone, e so che anche tu, insomma, tutti i teatri che navigano a vista e sono considerati, si sentono considerati sotto zero, neanche 0,5, sotto zero, perché dicono va bene, ci fanno saltare un altro anno di tutto. Io l'ho messo già in preventivo. Adesso non dico che quello che faccio io, che fanno i comici, sia necessariamente cultura, magari in parte lo è, però visto che viene, come dire, evidenziata l'importanza della scuola, io evidenzierei anche l'importanza di queste altre forme culturali. Non volendomi sempre mettere dalla parte, perché i comici sa che sono gli ultimi. Ma no, dai, sì, noi comici siamo gli ultimi. Va bene anche penultimi. Però vogliamo salutare adesso un ospite che è il presidente dell'Unione Regionale Istituti per Anziani della Regione Veneta e presidente anche di Ancora, un'associazione nazionale di coordinamento degli organismi di assistenza pubblica, quindi parliamo di RSA. Roberto Volpe, presidente, buongiorno. Buongiorno. Che ha anche scritto una accorata mail con un appello. Lei è amministratore delegato della Fondazione Marzotto a Valdagno che gestisce 3 residenze per anziani. Sì, 2 in Veneto, 1 in Lombardia. Esatto. Qui il tema è, le abbiamo viste, le residenze per anziani, che purtroppo a marzo in alcuni casi si sono dimostrate nell'impreparazione, magari, se mi concede, di una vicenda così complessa, delle situazioni di potenziale rischio. No? Siamo attrezzati adesso, perché la seconda, un secondo errore, diciamo, non sarebbe molto accettato, io credo. Ma sicuramente dobbiamo dire che siamo molto più preparati oggi di allora. È pur vero che allora, nonostante si sapesse che la popolazione anziana fragile, perché quello che veniva dall'Oriente era già un segnale forte, noi, come troppo spesso capita in questo paese, ci accorgiamo degli anziani quando il problema c'è. Quindi era immaginabile che noi eravamo, mi passi questo termine che è anche antipatico, il supermercato dove il Covid avrebbe fatto la maggior spesa in termini di vittime. Perché? Perché questa è la popolazione più fragile e noi ospitiamo questo tipo di popolazione. Sì, tra l'altro lei ha accennato una cosa e credo sia anche nell'appello che ha fatto alle istituzioni, cioè: sapete, per esempio, cari italiani, che non ci sono infermieri, che già c'è una carenza di infermieri in alcuni settori, ma soprattutto di infermieri che poi vogliono occuparsi di anziani, di lavorare nelle residenze sanitarie per anziani. Ecco, io potrei anche fare un'affermazione, voglio fare un'affermazione forte, che è quella che in questo momento noi siamo più preoccupati della carenza del personale infermieristico che del Covid. Perché così facendo temo che le vittime che farà questa grave crisi del personale infermieristico sul mercato del lavoro è molto peggio di quello che farà il Covid. Per il Covid si troveranno vaccini, si troveranno farmaci, ma non è la stessa cosa. I nostri ospiti oggi sono sostanzialmente quelli che qualche decennio fa erano nelle lungodegenze e nelle geriatrie, e l'infermiere è una figura cardine per i nostri servizi. Ma perché non ci sono? Cioè, perché manca, perché mancano queste professionalità? Guardi, dottor Milan, se lei potesse in questo momento fare un piccolo sondaggio tra tutti gli ascoltatori e dire a ogni mamma o papà che è collegato, alzi la mano chi ha l'ambizione che il proprio figlio o la propria figlia faccia l'infermiere o l'operatore sociosanitario, mi creda, sarebbero poche le mani che si alzano. Perché? Perché noi siamo un paese che dopo la crisi del 2000, dove ci fu una grossa crisi infermieristica, dove mi permetto di ricordare, il se lei va a vedere la legge 189, in quel momento in cui c'era il blocco dell'entrata delle professioni dall'estero, si salvò in extremis quella problematica, perché con il caso Recoba si inserì nell'articolo degli sportivi gli infermieri come flussi non più definiti dalla programmazione. A quel tempo però si risolse, il problema fu un po' risolto, perché andammo tutti all'estero a prendere dal mondo dell'est e dal Sud America. Oggi però questo mercato estero non c'è più. Certo. Come mai non c'è noi più? Non c'è più per il Covid? No, non c'è più perché poi la sanità è cresciuta anche negli altri paesi, e perché altri paesi occidentali sono andati ad attingere in quei mercati. Poi la sanità è cresciuta anche in quei mercati, per cui oggi noi non abbiamo la possibilità di attingere all'estero, certo, certo. Perché io me lo immaginavo proprio così, no? Chiunque entra in un ospedale vede che ci sono molti infermieri e infermiere straniere, poi, no? Che vengono. Poi sì, sì, questo soprattutto nelle nostre residenze c'è ancora un residuo di quegli anni. Però il tema è che da quegli anni, come sempre, risolto un problema in quel momento, non ci si è più preoccupati del dopo. Allora, siamo di fronte ad un paese che a fronte di questo fabbisogno che noi lamentiamo da qualche anno, continuiamo a mantenere i numeri chiusi degli atenei sugli infermieri, manteniamo un percorso didattico in questo paese che fra tutti i percorsi didattici dopo la scuola dell'obbligo non ha mai pensato di fare un liceo sociosanitario. Le faccio un esempio. Se oggi in questo paese avessimo dei licei sociosanitari, intercetteremmo molto prima chi potrebbe avere una vocazione di questo tipo. Magari dopo 3 anni di scuola ha già un titolo di operatore sociosanitario, al 5° anno quello che era l'ex infermiere generico che ha ricostruito la sanità in questo paese, e nel momento in cui una persona va oltre a fare scienze infermieristiche o professioni mediche, arriverebbe con una preparazione superiore. Noi siamo ancora con l'idea che chi studia geometra poi vada a fare l'infermiere. Ma questo è l'allarme che giustamente lei, Presidente Volpe, lancia, cioè, perché poi si parla sempre di carenza di lavoro. D'altra parte lei anche ammette e dice, chi alzi la mano, chi si sentirebbe attratto da questo tipo di professionalità. Il livello di retribuzione degli infermieri è appetibile per chi volesse intraprendere questa professione? Guardi, il livello di retribuzione, se lei trova una categoria in cui in questo paese qualcuno è contento della sua retribuzione, credo che anche i notai si lamentino. È impossibile dire che tutti sono soddisfatti della loro retribuzione. Diciamo che rispetto ad altre professioni, sicuramente quella infermiere, ma questo non può essere il tema, perché un ragazzo non dice non lo faccio perché non è uno stipendio adeguato, non lo fa perché oggi i giovani hanno perso la vocazione del prossimo. Quanti genitori vorrebbero che tutti i figli fossero Balotelli piuttosto che una donna di spettacolo? Questa è l'ambizione della genitorialità di oggi, ma qui è dove lo Stato manca, perché l'orientamento scolastico, la formazione, l'educazione di un paese, di un popolo, di giovani, passa anche attraverso muovere delle sensibilità e dare questo orientamento. Io sono arrabbiato quando vedo oggi che vengono usate risorse su vecchi temi, reddito di cittadinanza piuttosto che altre, ma facciamo borse di studio per questi ragazzi, aiutiamo questi ragazzi ad intraprendere un percorso, poi sarà il percorso giusto o meno, ma almeno proviamo. Non ci può non mai provare. No, ma poi infatti accorgersi quando il tema c'è. Quando il problema c'è. Allora facciamo così, Roberto Volpe, visto che lei ha fatto questo appello sia al Presidente del Consiglio, al Ministro, ci faccia sapere, ci aggiorniamo se ci sono degli sviluppi, sperando di non aggiornarci per sviluppi insomma negativi per la questione, no, per la questione emergenza, e tutti noi abbiamo gli occhi puntati con affetto insomma quello che succede nelle residenze sanitarie per anziani. Per il momento la ringraziamo, devo dire che la battuta di Paride, per tornare un attimo indietro, non è male. Il teatro ormai è stato sostituito dal teatrino della politica e ce lo passano gratis, dice Paride, quindi gli artisti si adeguano. È una battutaccia ovviamente, che non strappa neanche un mezzo sorriso a Manera, che è abbattutissimo. No, è un incitamento quindi a fare politica, a fondare il partito dei comici. No, dice che il teatro degli artisti è stato sostituito dal teatro della politica. Ma dovevate fare quello, dovevate farlo il partito dei comici. Richiameremo un giorno Diego Parasole, che è quello con cui tanti anni fa pensai di fare questo partito. Adesso saresti in Parlamento, tu pensa. Ma far ministro, mancare, ministro, a far mancare ministro Bonetti, ministro Bonetti, c'è già una ministra, sì, Bonetti, certo. È tua parente, si sa che traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, ma sentivo 1000 negli stadi, 800 o 200 nei teatri, ma mi sorge il dubbio, ma non è che questi non sanno cosa sono le percentuali? Bravo Milan, mi piaci perché sei scaltro, bravo Milan. Sai che il sospetto della signora ascoltatrice è fondato. È vero, è una stupidaggine dire possono entrare tot persone a prescindere dalla capienza. Eh sì. Cioè, pensa al teatro degli Arcimboldi a Milano, che credo 2000 persone, 200. Ma vi rendete conto? 201, oh, come va lassù? Mi sentite dal palco? E così più o meno. Comunque sei scaltro, te lo dissi io un po' di giorni fa, scaltro, un bel termine, desueto, ma sei scaltro. Ministro Bonetti, prego. Allora, qualche tempo fa si è fatto un gran parlare del film Lockdown all'italiana, che non so se è già uscito o se ancora deve occupare gli italici schermi. Avessero avuto forse un po' più di lungimiranza, visto l'aumento dei contagi, il titolo avrebbe potuto essere Natale in lockdown, come quello che forse ci apprestiamo a vivere, sia pure un lockdown soft. Ma siccome sempre di spettacolo si tratta, io mi permetto di suggerire ai vari produttori cinematografici alcune mie idee per film in materia Covid, che sicuramente potrebbero garantire grandi incassi e soddisfazioni inaspettate ai botteghini. Il primo si intitola La mascherina di ferro. È un po' un semiplagio, però, La mascherina di ferro. Ecco la trama. È la storia di un medico controcorrente che all'aperto, quando non c'è assembramento, si ostina a non voler mettere la mascherina. Dietro decisione di una delle task force, viene allora condannato a indossare per sempre una mascherina di ferro con una feritoia per poter introdurre solo cibi approvati dal comitato tecnico-scientifico. Il medico quindi cade in depressione, ma quando sembra che tutto sia perduto, il suo caso umano viene portato alla ribalta e all'attenzione dei media da Barbara D'Urso a Domenica Live. A quel punto tutti si commuovono, il premier Conte in diretta Facebook lo perdona e Rocco Casalino col flessibile gli sega la mascherina. Con però la promessa di indossare quella chirurgica anche durante le ore di sonno. Quindi il medico in questione partecipa al grande fratello VIP e per lui comincia una nuova vita nonostante il coronavirus. Mi piace molto. Ride già, non è ancora sugli schermi la mascherina di ferro, ma già lo fa molto ridere. Produttori italiani, De Laurentiis. Il secondo film si intitola Questo è un film che farà molto ridere, eh? Questo proprio è un film che appena dalla prima. Il secondo film si intitola Quando la moglie. Attenzione, è un titolo compromettente. Quando la moglie fa cosa? Chissà cosa fa. Il secondo film si intitola Quando la moglie. Rimarremo con questo dubbio. Cosa farà questa moglie? Il secondo film è... questo ha una sceneggiatura, ragazzi, che era proprio risate a go-go. Quando la moglie fa che cosa? Ma che poi non fa ridere, fa ridere me. Il secondo film si intitola Quando la moglie... Quando la moglie è in quarantena. Quando la moglie non fa nulla, è in quarantena. Vabbè. Questo a che ora chiudiamo? Tra due minuti, hai tutto il tempo forse. Questo film racconta la storia di Anna, una ragazza che ha coronato il suo sogno: andare in vacanza in Sardegna con le amiche senza marito e passare una serata al billionaire per avere l'ebbrezza di vedere Briatore da vicino. E così fa, e per Anna è una bellissima vacanza tra il mare cristallino della Costa Smeralda e quella notte pazza al billionaire, dove si assembra insieme agli altri ai bordi del privé per vedere se c'è qualche calciatore o qualche virologo. Tornata a Milano, però, mentre cena col marito Claudione, Anna fa un colpo di tosse, non si capisce se per il virus o perché non ha digerito la frittata con le cipolle. Ma il marito Claudione, che è sospettoso, le fa fare il tampone. Anna risulta positiva, essendo costretta in una stanza da sola in quarantena senza nemmeno la TV in camera. Claudione si scatena. È in quel momento che appunto Claudione utilizza il periodo di quarantena di Anna per provarci con la vicina di casa, Luana Samantha, con la quale cerca di avere un rapporto. Visto il diniego di Luana Samantha, che non vuole stare con Claudione perché non è abbastanza tatuato, lui, nonostante la quarantena di Anna, torna da lei, sfonda la porta della camera e ritrovano l'amore ormai perduto da tempo. Il film termina con Anna e Claudione che sono ancora in quarantena e finalmente si chiariscono sul loro rapporto dopo aver acceso in cucina il falò del confronto, come in Temptation Island. Scegliete voi quello che preferite, il soggetto che avrà più consensi verrà proposto ai vari produttori per avere un film di qualità che superi le polemiche causate dal lockdown all'italiana. Oh, come dice l'ascoltatore, fantastico, grande Leonera Manardo, mette allegria senza se senza ma. Vabbè, io voto la mascherina di ferro. Anch'io voto la mascherina di ferro. Siamo già a due. Carmelo Lauricena, no, Carmelo Lauricena non conta. Miriam Luca. Carmelo, quando esco mi aspetta con un randello nodoso, con un miccio di... c'è l'amica? Il miccio di boe. No, no, non è vero, non siamo ancora in chiusura. Oggi siamo un po' a pazziare, a pazziare. Ci voleva il miccio di boe qua. Tu, Carmelo Lauricelli, cosa voti dei due film? La mascherina di ferro? Anch'io, ma l'altro sono riempitivo. Anche Miriam, insomma, praticamente uno è un film, l'altro faceva ridere solo a te, e tra l'altro non faceva ridere. Questo è vero. E quindi l'altro è stato un riempitivo. Va benissimo, allora andiamo. Ah, ecco, comunque il 15 ottobre esce Lockdown all'italiana, così ci diranno di prendere soldi anche da Vanzina. Andiamo al giornale radio. Ci vorrebbe una bella passata di Miccio del Boe, in loco. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, Panardo. Cosa avete bevuto stamattina? Lo voglio anch'io. Per fortuna c'è Manera, veramente per fortuna. Comunque voi sarete anche bravi, ma i vostri registi e i vostri redattori e redattrici lo sono ancora di più. Tra l'altro questo era il cugino di Calmero Lauricella. Sì, sì. Tra l'altro quello smargiasso di Calmero Lauricella ha fatto l'applauso solo per i registi, i tecnici, ma mica per tutto il personale che lavora in redazione. È un suo vezzo di far telefonare il cugino per fare i complimenti sempre alla regia. È così. La seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Devo dire che la mascherina di ferro ha vinto anche per i nostri ascoltatori. Ma anch'io lo sapevo perfettamente. Quando tu fai una cosa, dopo dovevo riempire ancora due minuti. Pensiamo un'altra roba. Quindi ridevi per quello. La prossima volta ridi per quattro minuti. È una risata. Si sa che la risata è contagiosa, no? Così, frase fatta proprio. Allora, cari ascoltatori, siamo qui 10-10 minuti, c'è Camilla che ci chiama dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Prego. Sì, e niente, io volevo dire che sono un operatore sociosanitario, sto cercando un posto di lavoro e purtroppo non si trova. Si fanno dei concorsi, se 100 persone siamo state, ne hanno prese 200 e stiamo aspettando ancora il posto di lavoro. Quindi allora, lei dice, visto che prima abbiamo avuto il responsabile delle RSA del Veneto... E dicevano che non lo si trovava personale sociosanitario, infermieristico, e invece secondo me non è vero, non li assumono. Ho fatto domanda da tutte le parti, per esempio a Monza, a Galesco... Ma lei, scusi, parla di ospedali, ospedali sanità privati? Sì, ospedali. Mentre la residenza, la sentiamo un po' male, insomma, la residenza sanitaria per anziani invece non... Anche per anziani, e anziani cosa fanno? Ti prendono, ti assumono per un anno e poi ti dicono e adesso non abbiamo avuto tante spese per il Covid e quindi non riusciamo a assumerla. Accogliamo la sua esperienza, ecco, Camilla, la provincia di Lecco. Non lo so, proveremo a scrivere anche al presidente Volpe a capire com'è. Certo, la situazione, magari adesso il Covid è una situazione di emergenza che magari fino a qualche mese fa non c'era e non valeva. Vedremo. Intanto, Camilla, registriamo questa sua testimonianza a dire che in realtà fa fatica, proprio fatica a trovare lavoro. Alessandro da Bergamo. Buongiorno, dico, sono concordo con la signora, io lavoro a Bergamo, a Capici 23, cioè il posto più grande per il Covid, si ricorda che è stato il posto più colpito in Europa, e comunque il problema anche perché non fanno infermieri, io non sono d'accordo per niente con detto il presidente dell'RSA, perché due problemi, gli infermieri ci sono, ma fanno pochi concorsi. Giusto ieri hanno fatto l'ultima fase o oggi del concorso per infermieri a Seriate, e gli infermieri ci sono andati, il concorso erano più di 1000. Il problema è che tendono molto meno a assumere, e secondo me è grosso, gli stipendi. Lui dice no, non ci si lamenta tutti degli stipendi, però se lei mi dice un infermiere prende sui 1500 euro, quando ci aggiungi le notti, le guardie e tutto, arrivi 1600-1700 euro, non è che sia uno stipendio. E sa benissimo che gli infermieri hanno grosse responsabilità. Io non faccio l'infermiere, faccio tecnico di radiologia, è un altro discorso. Però io lavoro nel pronto soccorso di Bergamo, hanno delle responsabilità enormi, sono stipendi ridicoli, detto effettivamente. Insomma, quindi lei ne fa una questione non secondaria, la questione dello stipendio. Sì, i concorsi sono nel pubblico, ovviamente. Qui si parla di residenze anche, immagino, private, quindi sono cose in questo caso diverse. Però anche Alessandro ci dimostra. È innegabile che l'incentivo economico abbia una sua importanza. Ma insomma, tutti i lavori, anche se c'è la vocazione, ma insomma, se uno ha la vocazione senza essere gratificato economicamente, si mette un po' da parte la vocazione. Sì. Nell'angolino, lascia lì. Faccio l'infermiere per i miei familiari. Cerco un'altra roba che mi fa guadagnare di più. Sentiamo Donato da Perugia. Devo dire tutti su questo tema, che evidentemente ha scatenato un bel dibattito tra gli ascoltatori. Donato, buongiorno. Pronto? Eccoci. Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno anche a Leonardo Manera. Una cosa, io, mia figlia si è laureata in scienze infermieristiche nell'aprile di quest'anno. E il 15 maggio è entrata a lavorare come infermiera in una RSA di Lozzo Atestino, un paese in provincia di Padova, a 7 chilometri da Bo. Si trova benissimo, è contentissima, noi siamo orgogliosi di questo suo lavoro. Però volevo dire, in quanto riguarda la retribuzione, sicuramente la retribuzione per il lavoro che viene fatto non è il massimo, però secondo me dipende anche molto da come sono educati i figli, perché mia figlia un po' come ci diceva prima il presidente. Scusi un attimo, la interrompo, ma Alfiatore, sentiamo che Alfiatore sta correndo, cosa fa? Non si sente bene? Sto camminando in salita. È stupendo, sta camminando quindi, in salita, infatti sono preoccupato per la mascherina. No. Vabbè, lei dica, lei ci passa il vigile se la ferma. A Perugia c'è l'obbligo già di mascherina? No. Ma se è da solo, ma poi se è da solo, giustamente, Perugia in salita, giustamente. Non incontro nessuno, quindi. Dicevo, il fatto dell'educazione. Mia figlia, quando ha preso lo stipendio di settembre, di agosto, scusi. Si fermi un momento, perché siamo preoccupati per lei. Quando ha preso lo stipendio di agosto, mi ha chiamato dicendomi, papà, mi sa che si sono sbagliati. Ho detto, ma perché si sono sbagliati? Scusa, è una ditta grande. Perché mi hanno dato troppi soldi. Ma possiamo sapere quanto è l'entità? Tanto non sappiamo l'entità dello stipendio. Aveva preso 1650 euro. Che è un buono stipendio. Devo dire che, per esempio, un ascoltatore ci dice 1500, faceva riferimento prima all'ascoltatore da Bergamo, è un signor stipendio, cosa si lamenta quello lì? Vabbè, insomma, adesso non andiamo anche alle risse tra ascoltatori. Cioè, lei dice 1650... E sua figlia addirittura si è stupita, ma perché aveva fatto forse degli straordinari, aveva, no? Hanno parecchie ore, ci sono le notti, tutto quello che, per carità, però voglio dire, dipende anche da come uno viene educato. Educato. Purtroppo sì. No, ma comunque. Donato, no, anche perché siamo preoccupati per la sua salute, scherziamo. È lì che fa, che in salita quanti a Perugia. Anni ha, Donato, quanti anni ha? Io 58. E ancora si ostina a camminare in salita rapidamente, rinunci. No, così almeno posso permettermi di mangiare. Ottimo, bello, bravo Donato, gran bella passeggiata a Perugia e ci torna sul tema. E il presidente dell'RSA, Volpe, ci ha detto questa frase che sicuramente può fare anche discutere, fa polemica, no? Il modello ormai genitoriale è Balotelli, prendiamolo come esempio, come dire, il calciatore, o per una ragazza la velina, dico, la donna di successo, di spettacolo. Soprattutto lui ha detto che l'aspetto economico non dovrebbe avere importanza. Ce l'ha. Però insomma, come al solito, le generalizzazioni non si possono fare. Però Donato da Perugia ci ha spiegato che anche lui pensa che dipende, vogliamo, da come anzi dire vengano che educati, da come vogliamo dire che l'aspetto economico è l'unica cosa che conta in qualsiasi lavoro. Secondo me finisce la trasmissione, caro Manera, va a fare una rapina in banca, perché i soldi, il denaro sono... Quello, ho imparato da Mauro Meazza, che non è mio maestro. Allora, stai all'occhio, che tra poco abbiamo un magistrato della Procura di Milano in linea, quindi non fare apologia di reati e cose strane. Dai, tra... Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10-19 minuti, sapete che abbiamo già parlato del tema monopattini nei giorni scorsi, la nuova sostenibilità, la nuova mobilità cittadina comporta giustamente anche dei nuovi mezzi di locomozione, soprattutto con l'emergenza coronavirus. Ieri hai visto, c'erano sui giornali, caro Leonardo, queste foto sulla metropolitana di Milano a Cadorna, l'ora di punta. Cadorna è una delle stazioni più importanti, per chi non lo sapesse, in tutta Italia, con una massa di persone, studenti, tutti ammassati sulla banchia, tutti appiccicati. Credo che il Corriere della Sera la metta in prima pagina, lo dico perché mi guarda con una faccia No, non l'ho come vista, dire, non ho preso il come Corriere. Dire, non ho... Professoressa, non sono pronto all'interrogazione. Questo è vero. Aspetta, non ho visto la foto, non ho comprato il Corriere. È la cosa che ho strappato. Io compro solo il Sole 24 Ore, sono un aziendalista, non è che mi vado a comprare gli altri giornali. Tu non lo compri, lo sto dicendo per l'amministratore, ne prendi una copia. Lo sto dicendo per farlo sapere all'amministratore del gruppo, Cerbone. Io compro solo il Sole 24 Ore. L'ho trovata, guarda che bella foto ieri all'ora di punta in metropolitana. Quindi molta gente prende la foto e quella cosa, quella figura al centro della pagina, Leonardo. Quindi la gente prende molto il monopattino, però ma non sono in monopattino questi. No, sono in metropolitana per l'appunto. Ma siccome io ho visto invece persone che arrivano in metropolitana tenendo il monopattino. Ah, va bene. Ce ne sono tanti adesso in questo periodo. Questo sì. Però vogliamo salutare, la ringraziamo, torna con noi il procuratore aggiunto a Milano che coordina il pool ambiente salute lavoro, la procura, Tiziana Siciliano. Dottoressa Siciliano, buongiorno e grazie buongiorno di essere a lei. Qui. Buongiorno. Perché la procura di Milano, se ho capito bene, vuole vederci un po' chiaro anche sui numeri dei monopattini che circolano. Ci spieghi un po' la situazione. Si parla di Milano, può darsi che sia anche per altre città, così. Prego. Allora, certamente mi occupo soltanto di Milano. Mi permetto di fare una piccola storia perché altrimenti non significano nulla. Fino a giugno dell'anno scorso non c'era nessuna normativa che riguardava i monopattini, quindi sostanzialmente era una situazione di non legalità, di non normazione. Milano a un certo punto decide di bandire una gara, quindi di dare una regolamentazione, anche in virtù del fatto che, come già ci siamo detti, i monopattini sono degli strumenti più pericolosi come mezzi di trasporto, ruote piccole, insomma difficoltà di sterzata, i motivi che già abbiamo affrontato. Questa regolamentazione ovviamente ha avuto come principale funzione la sicurezza, ovviamente, ma anche il controllo di questi strumenti. E fra le varie regole che il Comune di Milano ha imposto per i soggetti che sono stati autorizzati a gestire questo servizio, che il TAR ha spiegato non è una concessione di servizio pubblico ma è semplicemente una regolamentazione di un'attività economica, e quindi fra le varie regole che sono state date, quindi limiti di velocità, luoghi dove possono circolare eccetera, è stato dato anche un numero massimo che ciascuna società, adesso sono 7 le società che hanno avuto l'autorizzazione dal Comune di Milano, il numero massimo di monopattini che queste potevano avere, la flotta di monopattini, credo, se ho capito bene, è 750? È 750. Tra l'altro su questa base è stato calcolato anche sono stati calcolati gli oneri economici che queste società per ciascun monopattino devono pagare al Comune di Milano, che poi sono 25 euro per l'eventuale rimozione, insomma ci sono una serie di oneri. Ecco, scusi, 750 per 7 società, mi ha detto, autorizzate, quindi fa 5.250. Questo è il massimo numero di monopattini consentiti in questo momento. Esatto, le società, di queste 7 società, 5 hanno ottemperato a questo limite, per due società invece hanno praticamente il doppio dei monopattini. E quando, hanno più monopattini, questo ovviamente per la società porta più profitto. Però una ne ha 1.400, una 1.200, il tutto ovviamente dovrà essere valutato, perché si basa su una differente interpretazione di quella che è il testo letterale del regolamento, ovvero loro ritengono nella loro valutazione che 750 siano i monopattini che realmente vengono messi su strada alla mattina a disposizione degli utenti. Ah, gli altri sarebbero una scorta. In realtà capisce lei che cosa dovrebbe fare la città? Mandare tutte le mattine il numero dei monopattini che mette a disposizione, quindi dando i numeri ovviamente identificativi, capisce che la questione è un po' macchinosa, finisce che questa cosa esula completamente da un reale effettivo controllo. No, è chiaro che giustamente la procura, voi dovrete fare le indagini, non c'è nessuna, lo dico agli ascoltatori, demonizzazione di questo strumento di mobilità, che voglio dire, però le norme di sicurezza vanno rispettate, perché altrimenti... Ma è soltanto questo, cioè, come già ho avuto occasione di dirle, noi non ci occupiamo di circolazione stradale, noi ci occupiamo di sicurezza. Per noi il problema è quando la gente si fa male. Se la gente si fa male perché c'è stata una violazione di norme, di regole, di disposizioni, allora la cosa diventa... Sì. No, tra l'altro mi ha incuriosito, non è ovviamente la sua competenza, ma quando lei ha detto per esempio che ci sono 25 euro per la rimozione, ma chi la paga? Perché li vediamo molto spesso i mezzi, anche biciclette o monopattini, lasciati un po' ovunque quando uno li affitta. In quel caso la società deve pagare al comune per la rimozione, allora, una quota. Questi sono oneri che la società deve versare a prescindere nel momento stesso in cui contrae con il comune, è tenuta al pagamento di 8 euro per l'occupazione del suolo pubblico e di 25 euro per l'eventuale rimozione. La rimozione viene effettuata dal Comune di Milano. Chiaro. Con i propri mezzi. Ovviamente poi la società si rivale su chi ha utilizzato il monopattino. Immagino. Non sarebbe logico che fosse così, ma non sono in grado di capire cosa sono i meccanismi di recupero. No, è chiaro. Come si è attrezzata, un'ultima domanda generale, dottoressa Siciliano, la Procura di Milano con questa nuova forma di mobilità sostenibile? Ci sono anche tutte nuove piste ciclabili, ma questo vale per tante città. Ecco. Ma la Procura di Milano si è attrezzata in questo modo, come secondo me è normale che sia. Noi cerchiamo di essere assolutamente al corrente di tutte le normative, di tutti quelli che sono i limiti, di quelle che sono le disposizioni di sicurezza, e le teniamo lì nel cassetto come nostra conoscenza per poter valutare se qualora ci fosse qualche evento nefasto, quindi qualche atto, qualche situazione insomma di pericolo, di messa in pericolo oppure di danno reale per la sicurezza, se queste norme sono state sufficienti, adeguate, se sono oppure state no, osservate, quello no. D'altra parte c'è una cosa molto importante e riguarda anche il livello di responsabilità. Allora, dei numerosissimi circa 200 incidenti che ci sono stati con monopattini, devo dire che hanno fatto quasi tutto da soli, cioè nel senso che è proprio lo strumento che se mal utilizzato può diventare pericoloso. Però quando si parla di responsabilità ricordiamoci che ci sono anche dei gestori di queste compagnie e che, per esempio, dico una cosa che può essere interessante da sapere, loro hanno una possibilità di controllo anche da remoto. Eh beh, certo, esempio, perché ormai è tutto... Certo, ad esempio la velocità. Cioè, se è vero che a Milano la velocità consentita è 20 km orari e sulle piste ciclabili 6 km orari, questa cosa può essere controllata da remoto. Per esempio, questo sto facendo solo un esempio e non sto dando un'indicazione su un preciso titolo di responsabilità, ma per dire... Le società devono assolutamente farsi carico anche loro e non demandare soltanto al buon senso o alla disciplina. È chiaro. Noi Tiziana Siciliano la ringraziamo, ripeto, procuratore aggiunto a Milano che coordina il pool ambiente salute lavoro. Ripeto, abituiamoci a questa nuova mobilità nel rispetto delle regole. Io vedo per esempio ancora tantissimi in due in monopattino, abbiamo detto mille volte. Ma io non li ho mai visti. È una cosa che dici tu per creare terrore sullo strumento del monopattino. Io non ne ho mai visto ho mai visti due su un monopattino. Non è vero, a me è capitato. Mai. I ragazzi, dai, affittano un monopattino. Mai visto. Ragazzi, ma per carità, se dovessi vedere cosa vedo di errato nei comportamenti degli automobilisti, iniziare la trasmissione adesso e finirei tra 4 ore, quindi non, è per questo che voglio dire, non si vuole demonizzare il monopattino, anzi sono molte di più le irregolarità degli automobilisti. Se voi conosceste uno come Leonardo Manera, non vi dico se conosceste uno come Mauro Meazza, cioè alla guida col telefonino in mano, passa a destra, a sinistra, allora io ti faccio notare, zigzaga. Io personalmente non faccio incidenti in automobile dal 93, quello è stato l'ultimo incidente che ho avuto per colpa mia. Multe l'ultima che ho preso risale a molti anni fa. Perché non incroci vigili? No. Perché non incroci l'ultima vigili. Che ho preso risale a molti anni fa, dopo quello mi sono responsabilizzato. Sì? Cosa hai fatto molti anni fa? Non possiamo dirlo. Deve essere stato un multone. La multa è citata in tutti i codici della strada come il caso Bonetti del 1900. Avessi già conosciuto allora Mauro Meazza, mi sarebbe passata una telefonata per farmi togliere la multa con le entrature che ha. Lui fa lo smargiasso, lui zigzaga perché dice è l'anno dell'Inter e va nelle strade così zigzagando. E poi se lo fermano i vigili fa vedere il tirapugni che... Sì, oppure se trova il ghisa interista, no? Esce la tessera dell'Inter, mano farcita e va avanti così. Insomma. Anche lui è da anni che non prende una multa con queste tecniche. Sai che ogni mi chiedevo perché. Sì. Qualche volta qui davanti al sole ho visto Mauro Meazza con un marsupio che non si addice alla sua eleganza. Allora ho avuto l'ardire un giorno che lui non c'era, lasciato sul... Ha tirato fuori il tirapugno. No, ho guardato cosa c'era dentro. Cosa c'era? Delle mazzettone di banconote in contanti. Accidenti, però... perché non ci dà mai un qualcosa? State un 5-6 mila euro in quel marsupio. Mannaggia, ragazzi. Vabbè, andiamo alla borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, ma guarda che maniera ha ragione, il 99% delle persone che vanno a lavorare vanno perché hanno bisogno di soldi, quindi più ne prendono meglio è, perché per vivere cosa c'è bisogno per vivere? Dei soldi. So già come finirà la trasmissione, con Milan che dirà meno calcio e più scuole. Allora, con un Elton John dannata. Non vorrei dare l'impressione di essere troppo materialista, di badare solo al denaro. Tu sei un anzi, io sono un idealista. Basta vedere il lavoro che ho fatto, che per i primi 10 anni, dall'87 al 97. Ma se mi mandi messaggi, vengo a prendere un aperitivo, sì, se mi dai 10 euro mi rispondi. Sì, cioè. Io stavo dicendo per i primi 10 anni, fino al 96-97, ho fatto un lavoro che mi permetteva appena di sopravvivere. E poi dov'è che è nata questa tua micragnosità? Cioè, tanto mi devi ancora 80 euro. Secondo me. Dopo, quando ho cominciato a capire che il mondo intorno a me girava in modo diverso, che tutti erano concentrati solo sul denaro, anch'io mi sono adeguato alle tue caratteristiche umane, diciamo. Comunque adesso tra il serio e il faceto abbiamo lanciato questo dibattito se si debba lavorare per la passione o per il denaro. E ovviamente se alle 11 non diamo una soluzione, come al cruciverba di Bartezzaghi, la gente si lamenta, insomma, non hai detto se bisogna vivere per il denaro o per la passione. Ma che cavolo, ma ragazzi! L'ideale sarebbe avere un lavoro che è anche la tua passione, ma anche questo ha degli effetti collaterali negativi. Ha degli effetti collaterali avere un lavoro che è la tua passione, perché poi te lo porti a casa e quindi pensi sempre a quello, diventa troppo invadente nella tua vita privata e alla fine tutti i rapporti finiscono anche con mogli e mariti. Perché? Ecco. Perché tu ti porti il tuo lavoro, che è la tua passione, a casa. Adesso abbiamo scatenato anche il dibattito se sia 1600 euro un buono stipendio oppure no. C'è chi dice che è da fame, ci vorrebbe almeno 2500. C'è più chi dice che è un ottimo meno stipendio. Orario, più ragazzi. Salario, meno orario, più trattenuti al signor Milan, più salario, meno orario. Dipende uno come vuol vivere, come certo che 2500 è di più di 1600. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Dopodiché dipende uno come vive, che attività, che aspirazioni. C'è a chi non gli bastano 10.000 euro al mese e dice... non riesco a mantenermi secondo la Maserati. Me, andando avanti col tempo serviranno sempre più soldi. Come diceva Frank Sinatra, questo aforisma. Ah, diceva sui soldi. Sì, diceva che progresso, diceva Frank Sinatra, è ogni cosa che ti fa risparmiare tempo ma ti fa spendere più denaro. Quindi visto che andiamo sempre verso un maggior progresso tecnologico, Vedi. Da Piero Angela e Platone a Frank Sinatra. Però aveva ragione. Ci distillavi la cultura scientifica. Aveva ragione Frank Sinatra. Progresso ogni cosa che costa di più alla fine. Ma perché avete chiamato Anacleto? Ma non c'era l'editto bulgaro su Anacleto che lo volevamo cacciare un po' dalla trasmissione? Ma io non... La chiesina! La chiesina! Come sta? Viva la chiesina! Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sto andando a Lucca con il mio amico Alberto Lupori. C'è da fare un'operazione. In questo momento sono a Lucca davanti a una banca. C'hai la mascherina? Ma come una banca? No, un'operazione? Aspetta. Attento, Anacleto, perché tu un'operazione e una banca. Ricordiamo che il direttore di banca, appena ti vede nella piazza Chiesina, cambia strada. Cambia strada. Che vuol dire che devi fare un'operazione con un complice davanti a una banca, Lucca? Chiamate la questura. Possiamo spiegare per telefono. Chiamate la questura subito di Lucca. Senti, Maria. A parte il fatto da quando ti dissi che l'economia è la rovina delle famiglie, Bardissoni, lì, Paolettoni, come si chiama, mi ha detto non lo chiamate più perché questo è il periodo. Chi è il tuo capo? Bardissoni, Barisoni, ma figurati. Cos'è che hai detto l'economia è la rovina? È la rovina delle famiglie. Ragionateci te, quel cervellone lì che è accanto, l'altro giorno lo sentì alla televisione, lo sai che gli disse il conduttore? Manera, dinne una delle sue. Allora disse che in un banca c'aveva una donna di dietro con la mascherina, pensavo fosse l'aspiratore. Sì. Fatela raccontare, l'ho già raccontato qui, l'ho già detto. L'ho già detto anche qui, che ero in banca con questa signora che si è voltata verso di me, nonostante avessi una mascherina, e mi ha detto via, mi vuole uccidere, se ne vada. Pensavo che tu gli prendessi soldi. Sì, però Anacleto, non è che tu adesso entri in banca con il passamontagna, che quella è una mascherina un po' diversa. Poi dopo. Sì, sono davanti a una banca, qui sono su un vialone a Lucca. Ma all'uscita dell'autostrada. Ma che ci fai lì? C'ho da andare con mio amico Alberto a fare un'operazione, poi te la dirò. Quando ti manderò un messaggio e lo leggerai la fine dell'anno. No, perché se tu ti modernizzi e ti metti WhatsApp, te l'ho già detto mille volte, io ti leggo subito. Se mi mandi gli SMS, io li leggo dopo 3 giorni, non sono più abituato. Sai che una volta ho fatto una figuraccia penosa, m'ha scritto Lilli Gruber e l'ho letto dopo 3 giorni. Quello è fatto bene. Cosa dici? Mi sono prostrato chiedendo scusa. Gli ho detto Lilli, perdonami, io non leggo. Con questo, tra l'altro, implicitamente ha anche detto che Lilli Gruber non è aggiornata, usa gli strumenti vecchi. È inutile negare. Se tanto mi dà tanto, ha detto questo. Ha detto che ha dato l'aperitivo. Ora guarda, se mi metti accidenti, che devi fare l'aperitivo alle 10? Con che cosa fai l'aperitivo alle 10:45? Non lo so, ora sai, Alberto è un po' stucco nell'aperitivo. Vedi che ti arrestano? Sapevo. Avete chiamato la questura subito. Senti, se per Natale vengo su, ti porto il vino, perché mi hai detto che ti piace il vino. Ma guarda, sai che non bevo un goccio di vino credo da 2 mesi, non lo so. Sai quello che ti perdi. Lo so. Non sai quello perdi. Perché sono sempre il vino si beve in compagnia, no? Che faccio? Bevo un vino con i miei figli di 12 anni, 14 anni. Io ho iniziato, quando guardi sì. la televisione, qualche trasmissione, o bevi un bicchierino di grappa, di vino. Mi bevo il Braulio giusto per fare pubblicità, un bel amaro così. Siete spenti a Milano, siete spenti. Dovete venire per in qua, in Bardinevole. Per in qua. Va bene. Ciao Anacleto, vai a fare la tua rapa in banca. Saluta il bugiardo e tutta la cricca. Chi è il bugiardo? Ciao. Io non conosco. Chi sia il bugiardo? Non lo so. Pinocchio. Ah, vabbè, dai, è Manera. L'ho capito che è Manera. Vai, dai. Ciao Anacleto. Ciao Anacleto. Allora, va bene. Oggi non è venerdì, tra l'altro. Come hai chiamato Anacleto oggi? Che di solito lo si chiama il venerdì. Perché si lamentava, diceva questa cosa che gli avevamo messo un editto bulgaro perché aveva detto l'economia è la rovina delle famiglie. Ma tu pensa te, la gente poi pensa veramente che. che noi mettiamo l'editto bulgaro. Beh, sapendo che ci sono delle linee insomma precise qui a Radio 24 alle quali i conduttori devono attenersi, come sì, tutte le linee editoriali, ma non ho capito se uno non può dire che l'economia è sai, qui non è ben visto dall'amministratore delegato. Ma anche tu non sei ben delegato, visto, però è un contratto e... Ma sai che non l'ho ancora firmato, tra l'altro devo ancora firmare il contratto di quest'anno. Ma vado domani da Sonia Cassaghi, che saluto. Beh, ti ringrazio firmato per aver appena dichiarato che siamo in una situazione di illegalità praticamente. Ma no, perché c'è una fiducia reciproca. È una consuetudine il fatto che tu sia ormai uno di famiglia. Vabbè. Anna ci scrive: simpatico Anacleto. Vabbè, adesso Anna, perché non lo conosci bene? Andiamo al traffico, va. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora signori, siamo a chiudere questa puntata di Uno Nessuno 100 Milan, come sempre speriamo scoppiettante, con un uomo scoppiettante, se mi permette, forse l'ho introdotto con un po' di po' di sfrontatezza e maleducazione. Elenio Mariotti, la nostra sardina che ogni tanto ospitiamo, le piace scoppiettante? Ma l'importante è che sia una scoppiettanza educata. Scoppiettanza. Cioè, sì, cioè anche la scoppiettanza è ammissibile se c'è sempre un'educazione di fondo. Io la penso tipo, così. Cioè, avvisi, sto per scoppiettare. Sì, devi prima dare un'indicazione e dire che sta per succedere qualcosa che potenzialmente potrebbe infastidire qualcheduno. Perché ricordiamo, per le sardine, prima di tutto va sempre... L'educazione è la cosa più importante. Come va? Tutto bene. Ma diciamo che per noi l'educazione è importante, perché se c'è una cosa che amano le sardine è proprio l'educazione. L'abbiamo capito. Cioè, alle riunioni condominiali noi diamo sempre ragione agli altri per educazione, anche se abbiamo più millesimi. Vabbè, così però. Infatti io adesso non posso più aprire le finestre perché sono coperte da ledere arrampicante di mio vicino. Un po' troppo educate. Non posso più usare la mia cantina perché un altro vicino la usa come bisca clandestina. Pago da solo la pulizia dalla scala comune, però non mi lamento, educati, perché l'importante per noi sardine è essere sempre educati. Vabbè, però insomma, vabbè. Senta, ultimamente si parla molto di voi, no? Sì, mi faccia anche l'altra domanda, che già questa le ho risposto. Sì, va bene, ma chi sono? Scusi, se mi sono permesso. Sa, perché io gliela ripeto tutte le volte, chi sono le sardine? Adesso finalmente ci darà. Mi sono permesso risposta con educazione di farla progredire nell'iter delle domande. Io la ringrazio per questo progresso interiore a cui mi spinge. Chi sono le sardine? Ma... beh, cioè, che dire? Non lo so. Come esprimersi in modo comprensibile e anche vero, no? In italiano, tipo? Diciamo che le sardine sono semplicemente uomini e donne, ma senza il tronista in mezzo. Se c'è una cosa che ci è comune è che tutti troviamo molto comodo lo zaino. Così il peso si carica su entrambe le spalle. Ecco, questa è una delle cose su cui abbiamo costruito il nostro manifesto. Sì. Lo zaino, quando vai in metropolitana, devi metterlo tra i piedi, altrimenti prima o poi lo sbatti in faccia a qualcuno. Per questo crediamo che adesso sia arrivato il momento di esporci. Come sardine dobbiamo avere il coraggio di dire le cose in cui crediamo davvero, e cioè... l'amicizia. Pensavo l'educazione. Perché l'amicizia è educata sia nella vita che sui social, su Facebook. Se c'è l'amicizia puoi fare tante cose: patinare, farti firmare il gesso con il pennarello, anche spostare una sedia, ma piano, piano. Educatamente, piano. Sì, vabbè, piano, sì. Piano. Piano. Perché se c'è l'amicizia non serve trascinare una sedia, bisogna sollevarla. Chiedo scusa se ho alzato i toni oltre la sedia. No, ma non li ha alzati. Ma è ora che qualcuno si prenda la responsabilità di dire le cose piano. Piano. Piano. Piano. Sì, va bene, abbiamo capito, piano, sì. Senta, Mariotti, dopo il referendum di recente. Voi avete... chiamarmi Elenio anche Elenio. Di nome è gradito. Hai ragione. Scusi, hai ragione. Perché ormai si è instaurato Elenio. Un certo rapporto. Posso darti del tu? Certo. Ok. Con educazione, che sia un tu educato, educatissimo, non un tu disprezzativo. No, che a volte no. Passi per strada la gente dice "Ehi, tu". Quello lì è un tu disprezzativo. Se invece dai tu, del tu d'affetto. In modo educato, sì, sì, è ben accetto. Ma allora, se sei un tu dispregiativo che porta dentro di sé la rabbia, non è educato. Caro Elenio, dopo il referendum so che avete scritto a Zingaretti e vi mettete a disposizione del Partito Democratico. Ma perché ci sono tanti settori della vita in cui noi diciamo anche sì, non diciamo solo no. Cioè, per esempio, al mercato, quando il signore del banco chiede, sono 4,50 euro, aggiungo due zucchine così facciamo 5 tondi, io dico sì. Oppure quando apriamo un sito, accetti tutti i cookie per continuare la navigazione, io dico sì, per educazione. Sì. Oppure se il bancomat chiede, vuoi fare una scelta ecologica e non stampare lo scontrino? Sì. Sì, sì. Perché noi dobbiamo partire da due cose su cui siamo tutti d'accordo. La prima è che la stagnola non va nel microonde. Ma cosa c'entra Zingaretti, io gli ho chiesto. E la seconda è che quelli con il camper sulla statale, insomma, rompono i coglioni. Questo è un po' mi scusi, poco educato. Ma questo è poco educato. È poco l'ho educato. Detto, ma ho fatto tutto il viaggio in coda dietro educato, un camper Elenio. Che non si schiodava dalla corsia. Vabbè, cioè, diciamo educazione, ma in certi momenti questo camper deve trovare. Facciamo una corsia apposta per i camper. Sì, però, scusami, ho alzato i toni. Dammi pure del tuo chiedo scusa, veramente ho esagerato. Vabbè. Ma questo camper tutto il tempo. Dietro che andava Elenio. A 20 all'ora. Vabbè, allora io... vogliamo spostarci con questo camper o no? Elenio. Ma vai da un'altra parte col tuo camper. Elenio, rimaniamo. Ma santa pazienza! Ma chi ti dice di andare per strada con il camper al sabato, che è il giorno che si spostano tutti? Torniamo a Zingaretti. Metti da una mazzata sui vetri, no, sui fanali di quel camper. Elenio, l'educazione. L'educazione. Perché Zingaretti abbiamo 30 secondi. Io vengo secondi. Lì e minaccio tutta la tua famiglia, te il tuo camper. No, ma l'educazione, Elenio. Abbiamo 10 secondi adesso perché... Mi fa schifo il tuo camper. Niente. Scusi. No, niente, dammi pure del tu. Però adesso dobbiamo sfumare, però non educatamente. Finire. Non mi fa finire. No, perché ho visto che hai perso un po' il controllo. Mi dispiace questo atteggiamento, educazione. Che ero venuto qui per dire le cose, per spiegare anche il nostro programma politico. Maledette. Non sono riuscito. Maledette, Legno. Dai, mi dispiace maledette. Anche umanamente. Andiamo a bere il caffè. Lei è colpa di quello là col camper. No. Elenio. Che se non mi andava così piano, riuscivo a dire tutto il mio programma. No, va. Il giro col camper. Le hai dette. Dai, a domani, Elenio. Andiamo a bere un caffè. A domani. Nessuno, 100.000. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.